Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17:06. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Il numero per intervenire in diretta, ve lo ricordo sempre, un numero di SMS 349-238-6666. In una giornata che è stata caratterizzata, come avete già sentito in parte nel giornale radio e qua approfondiremo l'argomento, dall'incontro molto atteso tra Mario Monti e Angela Merkel. Ascolteremo la voce del Presidente del Consiglio e sentiremo anche che cosa ha avuto da dire la cancelliera tedesca, che come avete sentito è rimasta piuttosto rigida su alcune posizioni, come per esempio la possibilità di dare una licenza bancaria all'ISM, il Fondo Salva Stati Permanente. Perché viene considerata importante questa questione della licenza bancaria all'ISM? Perché in quel modo l'ISM, questo fondo salva stati, quello che dovrebbe intervenire per calmare gli spread e ridurre i tassi, potrebbe in questo modo finanziarsi direttamente presso la Banca Centrale Europea e quindi più rapidamente rispetto al fatto, per esempio, di emettere obbligazioni. Comunque, questo è uno degli argomenti che approfondiremo. Toccheremo anche altri temi. Forse l'avete visto, se non l'avete visto ve lo segnaliamo, lo trovate ancora sul sito o sul quotidiano in edicola se siete in giro. Oggi il Sole 24 Ore pubblica un'intervista, un colloquio con il Presidente del Consiglio Mario Monti e un editoriale del direttore Roberto Napoletano, nel quale si annuncia in questo editoriale il monitoraggio che farà il Sole 24 Ore ogni mese dello stato di attuazione delle riforme, però non quelle che devono venire, ma quelle già fatte, perché come sapete quando viene fatto un decreto legge, quando viene fatta una legge, quando viene scritta una legge e viene approvata, poi però c'è l'attuazione concreta, ad esempio con i decreti attuativi fatti dai ministeri, e non sempre in questo paese l'attuazione procede così speditamente come il decreto, per cui magari ci si trova in una fase nella quale appunto c'è ancora molto da attuare nonostante il provvedimento sia approvato. Il Sole 24 Ore ha già fornito qualche numero su questo tema e domani tra l'altro ci sarà proprio una sezione dedicata allo stato di attuazione delle riforme Monti e faremo il punto da questo lato. Faremo il punto anche su questioni energetiche, le questioni che riguardano petrolio e gas. Petrolio perché? Perché c'è stata, come questo lo sapete ormai da qualche tempo, una fiammata dei prezzi che è sembrata accentuarsi negli ultimi giorni anche a causa dell'uragano Isaac, perché il 94% dell'estrazione nel Golfo del Messico è ferma e contemporaneamente i prezzi, almeno all'ingrosso sul mercato generale del gas, sono rimasti fermi. Questo anche grazie e soprattutto ai nuovi metodi di estrazione del gas. E però questo in realtà non si riflette sui prezzi che arrivano fino a noi e vedremo di capire perché. Parleremo ovviamente, come è naturale, di mercati. C'è lo spread che si è raffreddato in questi ultimi minuti, 440 punti, lo spread lo ricordiamo sempre, la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani a 10 anni e titoli tedeschi. La borsa è negativa, meno 0,39% il FTSE MIB, meno 0,3% il FTSE All Share, negativa anche il resto d'Europa, l'America scende dello 0,13% sul Dow Jones, dello 0,22% sul Nasdaq e dello 0,14% sullo Standard & Poor's 500, euro che quota 1,25,33 contro dollaro. Lo ripeto, 349-238-6666 per i vostri SMS. Come sempre, le notizie in breve di oggi. Chiedete dell'oro, oro è sempre da questo che partiamo, eh? In lieve rialzo a 1669 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, dopo quella che possiamo considerare una nuova corsa nei giorni scorsi, adesso, scusate la cacofonia, c'è un lieve calo per quanto riguarda il WTI, il greggio quotato a New York, meno 0,47%, $95.8 al barile. Per quanto riguarda il Brent, quello quotato a Londra, il calo è ancora più lieve, meno 0,06%, a $112.11 al barile. Un dato positivo dagli Stati Uniti è quello che arriva sul prodotto interno lordo, positivo ma in realtà in linea con le attese degli analisti, e come avete visto che la borsa americana è in lieve calo, il mercato lo ha riflettuto. Il prodotto interno lordo è cresciuto dell'1,7%, stima rivista al rialzo in base a quella precedente, quella di luglio, indicava una crescita all'1,5%, da dire che nel primo trimestre dell'anno invece l'economia americana è cresciuta del 2%. Una notizia che arriva dal Wall Street Journal, il quale riporta che le banche locali stringono il credito e le aziende dell'Europa del Sud guardano fuori dal vecchio continente per reperire fondi. Segnala anche il Wall Street Journal che i prestiti delle banche alle società nell'area euro sono scesi del 43% quest'anno e del 68% negli ultimi 5 anni. Dunque, appunto, le società dell'Europa del Sud, e quindi presumibilmente anche le nostre, guardano sempre più all'America Latina e agli Stati Uniti. Un'altra indicazione del fatto, scrive il quotidiano, che la crisi del debito dell'Europa è lungi dall'essere finita. Come si diceva, spread BTP Bund in lieve calo. Nel frattempo, oggi un'altra asta di titoli di Stato, ne ha parlato poi anche il Presidente del Consiglio Monti, giudicandola positivamente, perché l'Italia ha venduto 9 miliardi di botta a 6 mesi. Il tasso è ai minimi da marzo, all'1,585% dal 2,45 di un mese fa, appunto i minimi da marzo. C'è il dato sull'inflazione tedesca, un dato sempre da tenere sotto controllo, è importante perché è il dato sul quale si basa in genere la Banca Centrale Europea per le decisioni anche sui tassi. Come sapete, l'obiettivo della BCE è quello di mantenere l'inflazione intorno al 2%, esattamente al 2% che è l'inflazione tedesca, però ha superato le stime che prevedevano un più 1,9%, e parliamo di agosto. Dati italiani invece, ancora giù la fiducia delle famiglie, ai livelli peggiori dal 1996, a 92 punti in agosto da 92,9. Il 1996 vuol dire che è il peggior dato dall'inizio delle serie storiche. Fiducia che naturalmente si riflette sugli acquisti, e quindi c'è anche il dato sulle vendite arrivato dall'Istat, vendite che segnano un aumento dello 0,4% su maggio, mentre su base annua restano negative, si registra un calo dello 0,5%, quindi il dato è di giugno. Ancora dall'Italia, la direzione dello stabilimento Fiat di Pomigliano ha comunicato oggi alle organizzazioni sindacali che la produzione si fermerà dal 24 al 28 settembre e dall'1 al 5 ottobre a causa della persistente situazione di crisi del mercato automobilistico, della quale lungamente vi abbiamo parlato anche da questi microfoni. C'è la notizia a proposito di crisi aziendali e di difficoltà dell'occupazione che avete sentito anche nel GR. Cresce l'esasperazione dei minatori della Carbo Sulcis al quarto giorno di occupazione dei pozzi di Nuraxi Figus. Uno dei leader della protesta, Stefano Meletti, della rappresentanza sindacale della UIL, si è tagliato un polso e ha gridato: è questo che dobbiamo fare? Ci dobbiamo tagliare? Tutt'altra crisi aziendale, quella della Winjet. A quanto pare una cordata formata da professionisti e imprenditori siciliani è intenzionata a rilevare l'azienda. È la compagnia low cost siciliana in crisi economica. Questo è quello che riferisce l'ANSA. Del gruppo che ha manifestato interesse fanno parte, tra gli altri, un noto imprenditore della Sicilia orientale che opera nel settore della grande distribuzione agroalimentare e alcuni tecnici come l'ingegnere aeronautico Francesco Surace, ex dipendente di Winjet, e Roberto Corrao, medico specialista in medicina aeronautica e titolare di Aviomed, che è un'impresa specializzata nel trasporto aereo di pazienti infermi. E poi un tema che toccheremo più avanti. Avete già sentito un servizio nel GR: 100 giorni fa, il 20 maggio, la prima scossa; 3 mesi fa, il 29 maggio, la seconda; 100 giorni e 3 mesi dal terremoto che ha messo in ginocchio l'Emilia. Imprenditori e lavoratori tracciano un bilancio amaro che faremo più tardi con un'intervista. Ma prima le notizie su cos'è questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Stando a quanto riferisce il manifesto, il quotidiano Il Manifesto, quanto ha riferito il quotidiano Il Manifesto, notizia riferita dal consigliere regionale Enzo Foschi, Renata Polverini, presidente della Regione Lazio, si è sottoposta a un intervento chirurgico il 25 agosto scorso nell'ospedale Sant'Andrea alla periferia nord di Roma, e fin qui nulla di male, per carità, ma secondo quel che scrive il quotidiano, alla presidente sarebbe stato messo a disposizione un intero reparto dell'ospedale. Peraltro lo stesso reparto riservato per la presidente era stato chiuso per il periodo estivo a causa della mancanza di personale. Precisazione che arriva da Polverini, appunto. Non è stato richiesto alcun privilegio e nessun intervento sull'organizzazione ospedaliera è stato effettuato dalla regione o dalla stessa interessata per le 24 ore nella quale è stata ricoverata. Vedremo, arriverà un po' di chiarezza anche su questo. Questa è una notizia data dal Manifesto. Veniamo al primo tema di questa giornata. Come potete ben supporre, sono le vicende europee e l'incontro tra Mario Monti e Angela Merkel. Allora, nessuno qua tifa Monti, non tifiamo per nessuno, siamo giornalisti. Non è vero che non leggiamo mai gli SMS contro, li leggiamo quando sono specifici e di critiche a singoli provvedimenti. Quando dite che le riforme sono tutto fumo, no, non li leggiamo perché sono fin troppo generici, sono più da trasmissione politica che da trasmissione economica. Allora, la giornata ha visto anche un intervento del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, in un articolo pubblicato sul settimanale tedesco Die Zeit. La Banca Centrale Europea, dice, non è un'istituzione politica, ma impegnata nelle sue responsabilità come istituzione dell'Unione Europea. Le politiche fiscali dei paesi dell'area euro rendono necessario un vero controllo sui bilanci nazionali. E le conseguenze di politiche fiscali sbagliate in un'unione monetaria, dice Draghi, spingendo chiaramente per un'integrazione, sono troppo gravi perché queste restino affidate ai singoli paesi. Su questo è intervenuta in conferenza stampa anche Angela Merkel, la cancelliera tedesca. Su questi temi abbiamo chiamato il collega Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore a Berlino, che ha seguito la conferenza stampa di oggi dei due capi di governo, Angela Merkel e Mario Monti. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Allora, tra un attimo sentiremo anche la voce del Presidente del Consiglio sui più vari argomenti. Dal lato invece tedesco, Vittorio, mi sembra che le rigidità siano tutte confermate. Sì, esattamente. La Merkel ha detto i tassi italiani stanno scendendo, riferendosi all'asta appunto di questa mattina, perché state facendo le riforme. Quindi ha ribadito ancora una volta il mantra tedesco, che è quello di conti in ordine e riforme strutturali per rimettere a posto la competitività. Poi ha aggiunto che le riforme non solo basta vararle, ma vanno implementate, che è un chiaro segnale alla nostra inchiesta sul Sole 24 Ore, che ha fatto vedere come le riforme sono sì state fatte, approvate al Parlamento, ma non ci sono ancora i decreti attuativi, e quindi ha fatto riferimento al fatto che bisogna andare avanti anche su questo elemento. Quindi non si è smossa, diciamo, dalla tradizionale posizione tedesca. Tra l'altro, Vittorio, mi sembra che abbia evitato accuratamente alla domanda fatta da una collega, se non erro, di Sky TG24, la risposta alla domanda se ritenga lo spread tra i titoli italiani e i titoli tedeschi troppo ampio, insomma, aggirata, a dire il vero, nemmeno con troppa eleganza, cioè proprio non ha risposto. Sì, esattamente, anche se devo dire in quell'occasione ha detto una cosa molto interessante, perché nel cercare di evitare di parlare di questo e soprattutto della questione della condizionalità, perché gli è stato chiesto anche se avessero parlato della condizionalità per gli aiuti al fondo salva stati, rispondendo che non ne hanno parlato, ha detto che non ci sono problemi, perché tra gli strumenti pronti in caso di attacco speculativo, quindi, c'è l'FSF, quindi il fondo già in vigore, lo ESM, che è il fondo in via di definizione, che dovrebbe essere approvato legittimamente il 12 settembre dalla Corte Costituzionale tedesca, e la BCE. Quindi in qualche modo ha già dato per scontato che la BCE potrà comprare titoli di Stato. Questo è un elemento interessante, perché nel un sottinteso interessante, Vittorio. Esattamente, perché tra gli strumenti che ci sono, dopo che ogni Stato deve fare il proprio dovere naturalmente per mettere a posto i conti e fare le riforme, tra gli strumenti pronti ci sono appunto i fondi e la BCE. Questo è un elemento interessante, al che il nostro Premier Mario Monti ha risposto dicendo che è vero che noi dobbiamo fare implementare le riforme, ma bisogna che anche gli altri paesi hanno la stessa responsabilità di implementare quello che si è deciso nel vertice del 28-29 giugno a Bruxelles, cioè nell'applicazione di quegli strumenti che avevamo detto per lo spread. Quindi c'è stata un po' una posizione dialettica fra i due capi di Stato, sì, capi di governo. Anche se con entrambi hanno ricordato. No, prego, Vittorio, prego. Hanno ricordato le due diverse posizioni. La Merkel ha ribadito la posizione classica tedesca con una certa tranquillità, perché a suo avviso ormai il cantiere europeo è stato messo in atto, si deve procedere a una maggiore integrazione, gli stati devono continuare a fare i loro compiti a casa, ma ognuno di noi sa che ci sono pronti degli strumenti che prima non c'erano. A che Monti ha detto sì, però il mosaico va portato avanti. Ecco un altro elemento, sì, che si suggerisco, ecco, come analisi è il fatto. Vittorio, ti interrompo perché dato che stiamo parlando appunto dell'ISM, lo abbiamo raccontato prima e lo rispieghiamo, è il fondo, dovrebbe essere il fondo salva stati permanente, si parla della possibilità di una licenza bancaria proprio perché l'ISM possa raccogliere fondi più rapidamente per intervenire, perché li potrebbe prendere direttamente dalla Banca Centrale Europea invece che andare sul mercato con delle obbligazioni. La posizione della Merkel, come si diceva, abbastanza netta, dunque sentiamola. Io voglio ricordare anche che Mario Draghi, presidente della BCE, e io sono d'accordo con lui, ha detto che la licenza bancaria per il fondo di stabilità non è al momento una misura che può essere approvata, e per quanto riguarda anche le differenze tra gli spread che ci sono in Germania e in Italia, abbiamo detto anche che appunto ieri l'emissione di debito pubblico e dunque di bond italiani è andata molto bene e dunque sono convinta del fatto che le riforme approvate dal governo italiano di Mario Monti possano apportare davvero un contributo fondamentale a una diminuzione dello spread e naturalmente perché se lo spread dovesse aumentare ci sarebbero dei problemi, abbiamo visto che ha creato problemi in Spagna e aspettiamo anche il giudizio della Troica per quanto riguarda la Grecia e questo ha anche delle influenze sugli spread. Dobbiamo migliorare la collaborazione all'interno del gruppo europeo, non la nostra che è già ottima. Abbiamo fatto dei passi in avanti, allo stesso tempo però dobbiamo risolvere i problemi nel modo più veloce possibile per guadagnare credibilità di fronte ai mercati e soprattutto per l'euro. E vabbè, con una certa agilità gira intorno a qualche questione, ma su quella dell'ISM è abbastanza chiaro. Citava Vittorio D'Arold la questione del mosaico, le frasi sul mosaico di Monti erano riferite proprio all'ISM, da qua si intravede, pur col felpato linguaggio del Presidente del Consiglio, questa tensione che permane per certi aspetti con la Germania. Io penso che tutti questi temi dobbiamo vederli con la prospettiva del mosaico, e cioè sono singole tessere, così lo è l'ISM, il tema di un'eventuale licenza bancaria o meno, sono singole tessere che hanno la finalità di dare luogo e concretezza a una governance soddisfacente di questa cosa totalmente nuova per la storia umana che è l'Unione Europea e in particolare l'Eurozona. Germania ci insegna che occorre una gradualità nei progressi, certe cose non sono possibili oggi in certe condizioni, potrebbero diventarlo possibili domani in altre condizioni. Questo evolvere può richiedere modifiche dei trattati, con tutta la consapevolezza che non si possono prendere alla leggera decisioni sui trattati in una prospettiva di lungo periodo, tutto si può immaginare e credo che ogni singolo tema, compreso quello della licenza bancaria dell'ISM, non debba essere drammatizzato, sono tutte cose che vanno viste in una prospettiva di più lungo periodo e soprattutto quello che conta è l'obiettivo di avere una governance soddisfacente. Se un particolare strumento in un certo momento o non può essere introdotto o non incontra il consenso, ci possono essere degli strumenti alternativi da immaginare che superino queste difficoltà. Sono molto fiducioso in questa capacità che gli europei stanno dimostrando di apprestare ciò che è necessario per governare l'Eurozona e l'Unione Europea. Per chiudere con Vittorio D'Arold, inviato del Sole 24 Ore a Berlino. Vittorio, io te la dico molto brutale e perdonami, però l'impressione è che alla fine sia stato l'ennesimo vertice per fare un vertice, cioè un vertice di mezzo senza alcun risultato concreto per vedersi stringersi la mano e rimanere sulle proprie posizioni. Ma sì, certamente non ci sono risultati eclatanti, almeno quelli che ci sono stati detti in conferenza stampa. Però attenzione, quando la Merkel ha detto no alla licenza bancaria perché Draghi ha detto che è vietato dai trattati, ha in qualche modo escluso la licenza bancaria perché appunto non è più necessaria al fondo salva stati, lo ISM permanente, perché la licenza bancaria serviva se non ci fosse stato l'aiuto della BCE, l'intervento della BCE. Quindi leggendo attentamente, un po' analizzando diciamo le frasi che loro hanno messo concatenate nella conferenza stampa, si vede che c'è proprio una completa nuova fisionomia del salvataggio europeo, quindi il fondo di salva stati in caso di aiuto, ci sarà appunto una richiesta condizionata, la Banca Centrale Europea farà parte di questi strumenti, la licenza bancaria non serve più perché la Banca Centrale Europea è già nella partita e quindi un vertice che ha chiarito che la Germania sta cercando di fare quello che si chiama il cantiere europeo, cioè la crisi è servita a capire che ogni paese deve avere lo stesso grado di competitività, ci deve essere più uniformità e quindi dobbiamo fare un salto ulteriore per arrivare a una gradualità, a una nuova struttura che preveda cessioni di sovranità. Questo lo faranno probabilmente a ottobre, poi a dicembre, ma il tracciato è assolutamente segnato. E quindi è molto interessante vedere che la Merkel e Monti in questo hanno una sintonia di vedute, anche se ognuno naturalmente ha tempi diversi e sintonie sottolinea sensibilità diverse, perché ognuno sottolinea degli aspetti che gli sembrano più prioritari rispetto alle proprie agende interne. Le 17:35 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Dunque, domani sul Sole 24 Ore il primo rapporto sull'attuazione effettiva delle misure del governo Monti. Il rapporto si chiamerà Il Tagliando del Governo. Avrà cadenza mensile e verrà affiancato da un rapporto semestrale. Ditemi l'importo, ci chiede Carlo, ditemi l'importo della riduzione delle spese dello Stato negli 8 mesi. Allora, quello esattamente non lo sappiamo, sappiamo che però il decreto sulla spending review è a un 1,9% di attuazione. Antonello Cherchi, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Confermi un 1,9%, sono dati che hai pubblicato, che avete pubblicato ieri, se non sbaglio. Sì. La percentuale di attuazione è questa. Bisogna tener conto che nelle varie manovre che abbiamo preso in considerazione ci sono anche manovre che sono recentissime, tipo quella della spending review e quella, il decreto legge sulla spending review e sullo sviluppo, che sono stati convertiti a inizio agosto, quindi è fisiologico che almeno per loro i provvedimenti attuativi siano pochissimi, se non alcuno. Antonello, anche il Salva Italia, che è stato il primo provvedimento del governo Monti, mica è messo bene. No, assolutamente, infatti detto questo era una parziale giustificazione per spiegare la percentuale. Ci sono poi tutte le altre manovre che invece vanno indietro nel tempo, fino a quella di dicembre, che è la prima manovra, il Salva Italia, appunto, che ancora ha dei provvedimenti di tanti provvedimenti di attuazione che devono essere varati. Va anche detto che per alcuni di questi provvedimenti il tempo è già scaduto, quindi il governo è in ritardo, per altri ci sono tempi più lunghi, però insomma in generale la percentuale di attuazione adesso è bassissima. È bassissima. Che anche il Premier Monti ha detto che bisogna lavorare molto su questo versante, la chiacchierata che ha fatto con noi quest'oggi. Naturalmente, e il Salva Italia è a una quota di attuazione del 30%, quindi oggettivamente basso, un terzo del provvedimento, 22 decreti attuativi su 73, e per esempio, volendo, vi stupirà come è messo il provvedimento sul lavoro, perché probabilmente in questi giorni avrete letto, dico agli ascoltatori, avrete letto dell'impatto negativo della riforma del lavoro sull'occupazione. In realtà sappiate che praticamente siamo a zero là, cioè non è stato attuato niente della riforma del lavoro, Antonello. Sì, è così, anche se il ministro Fornero ieri ci ha spiegato che attuerà al più presto un gruppo di monitoraggio proprio della riforma, in particolare sul versante dei contratti, per capirne, per studiarne gli effetti e poi eventualmente per intervenire. Quindi la volontà c'è, sta di fatto che molti provvedimenti, da quelli sulla riforma del lavoro a tutte le altre, chiamiamole vecchie manovre, molti provvedimenti ancora sono al palo. Antonello, Da cosa dipende tutto questo? Dipende da un eccesso di attività normativa? Perché questo è un problema chiaramente di questo governo, ma è un problema italiano in genere questo del ritardo dell'attuazione. Cioè ci troviamo, anche noi giornalisti, a scrivere delle cose, a raccontare dei provvedimenti che poi però diventano operativi molto più tardi. Certo. Beh, ci sono varie spiegazioni. Intanto l'eccesso di norme, eccesso di norme che in questo caso può essere giustificato dall'urgenza di intervenire per mettere a posto i conti. Comunque noi abbiamo messo in fila sette manovre in meno di un anno, sette manovre corpose, quindi non parliamo di manovre di 2-3 articoli, ma parliamo di manovre con decine e decine di articoli, quindi sette manovre in pochi mesi sono tante. Questo ha un'altra conseguenza, che il legislatore spesso interviene su norme che sono state magari toccate dalla manovra precedente o dalla manovra che è stata fatta due mesi prima, quindi i tecnici che devono poi provvedere, i tecnici dei ministeri che devono provvedere all'attuazione, si ritrovano con una norma che è una norma ballerina. Non accade sempre, però questo può accadere, quindi stanno magari per confezionare il provvedimento di attuazione, arriva un'altra manovra che modifica, seppure parzialmente, quella norma su cui stanno lavorando, e quindi devono rifare tutto da capo. L'altro problema è quello dei tempi. Spesso il legislatore fissa dei tempi che francamente sono difficili da rispettare con una macchina amministrativa che conosciamo. Sono tempi strettissimi e dunque i tempi di gioco forza si dilatano e abbiamo i ritardi che stiamo constatando. Grazie ad Antonello Cherchi del Sole 24 Ore. Vi ricordo ancora una volta che domani trovate appunto questo Tagliando di Governo, dove trovate lo stato di attuazione di tutte le riforme. Qualche percentuale ve l'abbiamo data. Il decreto sulla semplificazione fiscale, per esempio, al 19,4% di attuazione, quello sulla semplificazione al 4,7%, quindi direi parecchio da fare per i tecnici dei ministeri. Grazie Antonello Cherchi e buonasera. Grazie a voi, buonasera. È il momento dei mercati. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Milano giù dello 0,33%, Francoforte su dello 0,11%, quindi Milano e Francoforte sono state tra le migliori oggi, mi è sembrato di capire, in Europa. Sì, assolutamente sì, peraltro va detto che Milano è peggiorata proprio, diciamo, negli ultimi minuti, nell'ultima mezz'ora di contrattazione, nel pomeriggio, subito dopo le notizie emerse al termine dell'incontro tra Mario Monti e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il FTSE MIB, l'indice italiano, aveva tentato di rialzare la testa ed era passato in terreno positivo, quindi a dimostrazione che l'incontro Merkel-Monti ha fatto chiudere sia la borsa di Milano sia quella di Francoforte con le migliori performance in Europa. Si diceva FTSE MIB meno 0,33%, FTSE OSHARE meno 0,23%, non abbiamo citato Parigi in calo di mezzo punto percentuale, Londra dello 0,47%, gira in positivo in questo momento Wall Street, il Dow Jones guadagna lo 0,04%, il Nasdaq lo 0,02%, storie opposte di banche ai due capi del listino, Banco Popolare che guadagna il 3,45%, il Monte dei Paschi che perde quasi l'8%. Di Monte dei Paschi abbiamo parlato ampiamente ieri. Eleonora, inizierei da qua però. Sì, infatti, diciamo, in entrambi i casi senza dubbio si può dire che è l'effetto semestrale. D'altra parte il Monte dei Paschi è andato giù meno 8%, meno 7,9% per l'esattezza. Ieri la banca ha annunciato di aver chiuso i primi 6 mesi dell'anno con 1,6 miliardi di perdite a causa soprattutto di svalutazioni pari a 1,5 miliardi, ma soprattutto hanno fatto tremare anche le parole pronunciate da Alessandro Profumo lunedì notte alla festa di Siena del PD, dove appunto il manager ha sottolineato che l'istituto versa in una condizione disastrosa, ha detto addirittura che in questo momento non guadagna un euro, poi ha detto che ovviamente se percorrerà la strada indicata dal piano industriale i manager dell'istituto cercheranno di riportare la banca su livelli adeguati di redditività. D'altra parte, ovviamente, le parole sono state poco confortanti, le parole pronunciate da Profumo. Sì, poi abbiamo sentito ieri dei conti. Per quanto riguarda invece due banche che sono andate bene, Banco Popolare e la Popolare di Milano, più 3,45 e più 1,5% sì, rispettivamente. Esattamente, anche in questo caso si può dire effetto conti. Il Banco Popolare ha chiuso il periodo gennaio-giugno con un utile netto di 29 milioni, in questo caso è in netto calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma d'altra parte superiore alle attese. Stesso discorso per BPM, che ha chiuso il primo semestre addirittura con una perdita di 131 milioni, ma gli analisti si aspettavano peggio e conseguentemente il titolo è andato su. Eleonora Prelios, ne abbiamo parlato ieri, la ex Pirelli Real Estate. Sì, Prelios oggi si è sgonfiata perché a sorpresa Davide Malacalza, che fa parte del board della società, ha votato contro i conti del primo semestre ritenendo che l'azienda immobiliare non abbia requisiti di continuità aziendale, quindi questo è stato un pretesto per prendere un po' profitto su titoli che nei giorni scorsi erano saliti, anche sulla scommessa che potessero emergere novità sulla cessione dell'azienda. Sappiamo infatti che ci sono due manifestazioni di interesse, di fatto non è uscito niente, il board ieri ha solo preso atto che ci sono appunto due cordate che hanno messo sul piatto delle offerte per la società. Ultimi due titoli che ti chiedo, Eleonora, Mediobanca ed RCS. Sì, Mediobanca ed RCS in questo caso si può dire che sono sotto i riflettori entrambi ormai da giorni, visto che si scommette un po' che possa avvenire un riassetto nel cosiddetto salotto buono della finanza italiana. Mediobanca oggi ha perso comunque il 2,89%, d'altra parte da inizio mese aveva messo a segno un rialzo dietro l'altro, mettendo complessivamente a segno un guadagno quasi pari al 50%. Sulla scommessa che possa avvenire qualche operazione straordinaria o un riassetto, ripeto, nel salotto buono, che potrebbe coinvolgere anche la partecipata RCS, che oggi è salita del 24,7%, ma soprattutto dallo scorso 24 agosto, quindi veramente nell'arco di poche sedute, le azioni hanno registrato addirittura un guadagno complessivo superiore all'80%, si sono portate da 0,55 euro sopra invece la soglia di 1 euro, e questo perché si scommette appunto sia che possa avvenire qualcosa, sia perché l'amministratore delegato Iovane ha promesso un nuovo piano industriale quest'autunno, piano che punterà alla riduzione del debito. Allora, intanto arriva un'agenzia che parla di indiscrezioni a proposito di quello che Angela Merkel avrebbe detto a Mario Monti. Gli avrebbe detto di attendere prima di chiedere l'attivazione dello scudo antispread, sostenendo che l'Italia può farcela da sola. Così Merkel a Monti. Questo però lo riferiscono fonti italiane. A proposito dell'attuazione delle riforme, ci scrivete gli aumenti di tasse o accise. Ricordo benissimo, approvati il venerdì, operativi dal lunedì. Anche questo è vero. È vero che un aumento delle accise è sicuramente una cosa meno complessa da mettere in atto rispetto ad una riforma di grande o di piccola dimensione che sia. Si diceva 100 giorni dal terremoto. Valentina Furlanetto ha intervistato il direttore di Confindustria a Modena, Giovanni Messori. Il sisma è stato devastante, però sono state fatte le cose che dovrebbero consentirci oggi di ripartire effettivamente con la ricostruzione. Parlamento, governo, commissario straordinario sono stati molto sensibili su questo e a giorni aspettiamo l'ordinanza del commissario straordinario che detta le regole per avere i contributi e quindi partire effettivamente per la ricostruzione. Secondo Marchesini di Confindustria Emilia, per gli aiuti mancano dei meccanismi semplici e dei tempi certi di erogazione. È chiaro che la burocrazia auspichiamo debba venire ridotta al minimo, più ci sono automatismi e meno discrezionalità è meglio. Naturalmente vigileremo con attenzione su questa fase. L'ultima cosa invece, se mi permette, che rimane un punto dolente, è che il rinvio del pagamento delle tasse, dei contributi e di tutte le procedure che devono essere compiute al 30 di novembre, questo evidentemente non ci soddisfa, e quindi continueremo a chiedere al governo un rinvio delle tasse generalizzato per tutti gli abitanti dei comuni colpiti almeno fino al 30 di giugno. Se dovesse quantificare i danni in miliardi per la sua provincia, a quanto monterebbero? Ma guardi, complessivamente credo che gli 8 miliardi e mezzo si avvicinino abbastanza verosimilmente a quello che servirà per coprire l'80% dei danni. I capannoni, le fabbriche, in percentuali quanti restano inagibili? Guardi, molti sono stati abbattuti, ho parlato prima di delocalizzazione temporanea, molte imprese si sono spostate in altre zone della provincia, hanno preso capannoni in affitto dove non c'era stato il terremoto. Quante persone sono ancora in cassa integrazione? Questo è un dato abbastanza allarmante. Probabilmente sono ancora più di 20.000 legate alla sola industria. Prima di lasciarla, c'erano state delle polemiche subito dopo il sisma, qualche settimana dopo, per la difficoltà di cittadini e imprenditori nel trovare finanziamenti, nel trovare degli accordi con le banche. Ora questo rapporto con gli istituti di credito è migliorato? Continuano a esserci difficoltà. Nella ricostruzione, nell'erogazione dei contributi, le banche avranno un ruolo operativo molto importante, perché anticiperanno a stati di avanzamento i lavori che vengono fatti, con interessi che però verranno pagati dalla regione. Così dunque Giovanni Messori, presidente direttore di Confindustria a Modena, al microfono della nostra Valentina Furlanetto. Noi prima di chiudere abbiamo un ultimo argomento, che è quello del prezzo del greggio. Prezzo del greggio del petrolio, che come sapete sta crescendo in questi ultimi giorni, ha avuto anche l'impatto dell'uragano Isaac, che come vi raccontano anche GR è arrivato sulle coste della Louisiana e sta avanzando verso New Orleans, venti che raggiungono anche i 130 km orari, molte persone senza elettricità, e dal punto di vista del petrolio vuol dire che il 94% dell'estrazione nel Golfo del Messico è ferma. Oggi le quotazioni non ne risentono più di tanto, meno 0,47% il WTI, ossia il greggio quotato a New York, quello con consegna ad ottobre, in forza anche i dati sulle scorte americane. Saluto Maurizio Mazziero, analista finanziario, esperto di commodities, fondatore di Mazziero Research, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, innanzitutto le chiedo un punto sul mercato. Chiaramente l'uragano Isaac è un evento passeggero, per sua natura è un uragano, ha avuto un impatto momentaneo sui prezzi che mi sembra che si stia già sgonfiando. Complessivamente che segnali vede? Ma innanzitutto dobbiamo dire che effettivamente, al di là di quello che viene così comunicato dagli organi di stampa, le similitudini, e al di là dei disagi delle famiglie, che appunto più di mezzo milione di famiglie senza elettricità, le similitudini sono più, diciamo così, per il periodo, quindi l'ultima settimana di agosto, e per la traiettoria che sta facendo questo uragano. Diciamo che la paura più che altro è a livello elettorale, perché su questa vicenda si possono perdere molti voti, insomma. Detto questo, scorte veramente sui massimi per quanto riguarda il petrolio. Per quanto riguarda il gas, siamo nella fase estiva, che è la fase in cui si tende a riempire le riserve, quindi quelli che sono i giacimenti, le vecchie miniere vengono riempite di gas, anzi la chiusura dell'attività produttiva nella Louisiana comporta addirittura un minore utilizzo di gas. Ultimamente c'è stato uno switch, ad esempio, delle centrali di produzione di energia elettrica, che vanno quasi tutte a gas, quindi addirittura sì. Non ci sono tensioni, diciamo, sui prezzi di petrolio e gas. Ok, non ci sono tensioni strutturali. Abbiamo visto però che il prezzo del greggio è cresciuto parecchio nell'ultimo periodo e ne abbiamo avuto un riflesso anche grazie alle accise, grazie si fa per dire naturalmente, sul prezzo della benzina. Di solito i prezzi di gas e petrolio vanno in parallelo, forse quest'anno per la prima volta abbiamo visto che no. Ma sì, per quel che riguarda, allora intanto dobbiamo distinguere quello che è l'ambito europeo e poi prettamente italiano con quello che è l'ambito degli Stati Uniti. In realtà le dinamiche per il gas è da diverso tempo che le scorte sono molto alte, poi con queste nuove misure di estrazioni non convenzionali. Quello che c'è da dire è che da noi, soprattutto in Italia, è tutta un'altra storia. Io guardi, ho ricevuto proprio ultimamente la bolletta di fornitura domestica di gas, ci sono quattro voci: il costo del gas, il costo della rete, le imposte e l'IVA. Ebbene, la somma della cifra di imposte e IVA è pari al 37,4% degli No, questo è chiaro, Mazziero, però le chiedo di essere breve perché abbiamo un paio di minuti. Sì. Produttori di gas tendono comunque, nonostante le due cose siano abbastanza sganciate, a tenere agganciato il prezzo del gas al prezzo del greggio. Certo, questo perché in realtà c'è una dinamica: il gas non viene venduto all'utente finale a quello che è il costo effettivo del gas, ma viene agganciato a una quota energetica che poi principalmente è quella del petrolio, e questa è la ragione per cui ora della fine si paga molto di più di quanto si dovrebbe pagare. E questo nonostante i nuovi metodi di estrazione del gas che stanno contribuendo moltissimo a tenere più basse le quotazioni. Questo è un fenomeno prettamente americano, diversa è la questione in Europa, peggio ancora la questione nel Medio Oriente, nell'area asiatica, dove i costi sono addirittura 5 volte tanto il prezzo del gas americano. Grazie a Maurizio Mazziero, analista finanziario, esperto di commodities, fondatore di Mazziero Research, per essere stato con noi. Ci scrivete a proposito ancora dell'incontro Merkel-Monti. Va detto che la Merkel si trova in clima elettorale e sotto il fuoco di sbarramento dei falchi, e naturalmente anche questo è vero. Ribadisco ancora una volta, visto che è arrivato un altro messaggio su questo tema, e qua non c'è nessuna difesa del governo, tant'è vero che abbiamo chiarito abbastanza nitidamente con il collega del Sole 24 Ore che era al telefono con noi che a livello di attuazione dei provvedimenti siamo ampiamente indietro. Grazie a Mauro Del Corno in redazione, grazie a Pietro Lacorte in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.